Madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tutti domandi, Cruciani, di cosa si occuperà la commissione contro l'odio. La commissione contro l'odio si occuperà di tutto, te l'ho detto, a 360 gradi. Allora, il migrante si occuperà dei cittadini, si occuperà del richiedente asilo, si occuperà dello sbarcato, si occuperà pure un po' un attimo dello sbroccato. E si tratta di occuparsi, di disoccuparsi e di intrallazzarsi. È un po' una supercazzola prematurata, come fosse Antani. E questo è la commissione. Questo farà la commissione. E bisogna stare tranquilli, sereni, riposati. Non vi preoccupate, ci penso io. State tranquilli, va bene? Allora ragazzi, inizia la fiera delle banalità dopo l'incidente ferroviario in Puglia. Un momento, annuncio a tutto il pubblico della Zanzara, questa sera non posso urlare, né arrabbiarmi, né mandare, posso mandare a fare in culo, cosa che ovviamente farò, credo, anche questa sera, ma non posso urlare perché il medico mi ha certificato. Ma quando te l'ha certificato? Oggi, che non posso, che proprio mi ha scritto proprio causa Zanzara. Ho un'aritmia cardiaca, per cui siccome io mi incazzo da morire qui alle volte, proprio mi arrabbio con alcuni miserabili. Che cosa ti ha certificato? Senti, c'è qui miserabili che chiamano. Sì. E non, quindi non mi farà arrabbiare. Quindi non si mi, è già non... prenotato Donato per stasera. Quindi io non urlerò. Beh, no, non credo. Non urlerò, ma se qualcuno dice le solite minchiate, con voce ferma e rassicurante, andrò all'attacco. Però non posso urlare. Beh, dunque andate all'attacco, ragazzi, approfittatene, andate all'attacco, picchiate duro fino alle 8:15, alle 8:20, picchiate duro, durissimo. È menomato il signore stasera, Non posso urlare. Cioè, ma chi è il cardiologo? Vorrei parlare col tuo cardiologo, però io prima o poi. Domani facciamo il collegamento col cardiologo. Allora, ho detto, inizia la fiera delle banalità su questa cosa drammatica, ovviamente dell'incidente, su cui non andremo a parare perché è un fatto di cronaca che fino adesso non ci dà spunti sufficienti. È un fatto di cronaca che ci dimostra però che appunto le infrastrutture di questo paese non dire pure tu, unico. Però ti inserisco nella fiera delle banalità, il binario unico, questa roba qua. La fiera delle banalità, il fatto che per fare un doppio binario devi fare un esproprio dal 2002 che sono cercato di fare, non riesci neanche a fare un cazzo d'accordo, di per più, carità, ma francamente, certo. Fammi arrabbiare subito, perché francamente lì sono anni che cercano di fare l'esproprio, fare un binario in più, cioè adesso non è così. No, per carità, ma sicuramente in questo paese non si riesce a fare un binario in più, non si riesce a fare, ti rendi conto. Però inizia la fiera della banalità, dicevo, dei politici, per esempio c'è uno dei 5 Stelle, innanzitutto la Boschi, sentiamo la Boschi, sull'incidente in Puglia nessuno sconto. Ma perché uno deve dire per forza qualcosa? Ma non è meglio in alcuni casi stare zitti e semplicemente dire, vabbè, c'è un'indagine in corso, vedremo quello che è successo, errore umano, incidente, cose meccaniche, eccetera, eccetera. Stare zitti spesso è la soluzione migliore. Noi non lo possiamo fare, io spesso vorrei stare zitto, caro David. Vorrei stare in silenzio assoluto, circondato solo dal silenzio. Solo che poi mi pagano per non stare in silenzio, capito? Questo è il grande dramma che uno vive. Comunque la Boschi, dai. Sicuramente il governo non farà sconti a nessuno nell'accertamento delle responsabilità. Ci mancherebbe pure, diciamo, no? Uno potrebbe dire, ma la grande scoperta della Boschi ci deve dire che il governo non farà sconti. Vabbè, mia madre subito mi scrive preoccupata che cos'è questa roba del cardiologo. No, mamma, tranquilla, va tutto bene. Va tutto bene, però non puoi dire così, con tua madre che sente la radio. Scusami, tua madre si preoccupa. Mandagli un SMS. Signora, mi ha spiegato adesso che non c'è niente di grave, però non si può arrabbiare. Non si può arrabbiare. No, esatto. Niente di particolare, cioè non è che c'ha aritmie. Non ha aritmie, però ha qualche piccolo scompenso. Renzi, capire chi sono i responsabili degli incidenti in Puglia. No, ma io, se non lo diceva Renzi, penso che la cosa sarebbe stata in dubbio. Cioè, avrei pensato che c'era gente già pronta ad occultare, diciamo, no? Capire chi sono i responsabili, vabbè, ce lo dice Renzi, siamo tutti tranquilli, dai. L'assoluta richiesta senza alcuna sconto di capire chi sono i responsabili di questo incidente, che cosa è accaduto, perché penso... E andiamo pure ai 5 Stelle, andiamo pure ai 5 Stelle, l'opposizione. Sentiamo questo deputato pugliese che si chiama De Laurentiis, signor De Laurentiis, il quale dice: quello dei treni in Puglia non possiamo definire un incidente, cioè prima dei magistrati, prima delle inchieste, prima delle ferrovie dello Stato, prima di Pinco Pallino, prima di minchia, lui dice che non è stato un incidente. Vabbè. Ovviamente anche noi facciamo richiesta al ministro di venire a riferire sulle ragioni, sulle dinamiche di questo, che però mi sento già da ora non poter definire un incidente, perché insomma un incidente è qualcosa che capita quando non si ha assolutamente previsione appunto di quello che può accadere. Ma ragazzi, basta, non voglio più sentire queste banalità sesquipedali su quello che è successo. È talmente grave quello che succede, gli incidenti, il binario unico, i treni che si scontrano, le carni maciullate, il sangue, la gente che... È talmente grave che queste banalità uno se le potrebbe veramente risparmiare, perché non ce n'è bisogno. Nessuno sente l'esigenza di una parola di Renzi oggi. Ma nessuno sente l'esigenza, nessuno. La presenza dello Stato in questo ma caso. La presenza di che cosa? Ma la presenza della gente che indaga e scopre quello che è successo. Punto. A che cazzo serve una parola in più della Boschi o di Renzi oggi? Non serve una mazza, diciamo la verità. Bisogna smetterla di pensare che le istituzioni siano là per dichiarare. Le persone non sono lì per dichiarare, ma per fare. Il ministro del per Rio fare, non per Puglia. Dichiarare. Il ministro di che? Del Rio. Ma quello è il ministro dei trasporti, vabbè, ci può anche stare che il ministro dei trasporti comunque, vada lì. In tutto il mondo i presidenti del Consiglio quando avvengono... Ma non è vero, voglia. Ma non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, ma non è vero, non è che si precipita. Quando è avvenuta quella tragedia, senti, del ciclone. È molto più nobile. No, ma scusami, non fammi arrabbiare anche. Ecco, mi sta scrivendo il cardiologo. Ci sto sentendo che ti stai alterando. Non mi arrabbio, cardiologo, dottore, scusa. Ecco, ha scritto. Allora, torniamo sulla vicenda di Fermo, che è un po' la nostra Dallas, si potrebbe definire, la nostra Dallas, il nostro caso di razzismo, sempre se di razzismo si tratta, ovviamente, sempre se di razzismo si tratta, cose su cui ho molti, molti dubbi, come ho molti dubbi sul fatto che l'Italia sia un paese razzista. L'Italia non è un paese razzista. Certo, ci sono i razzisti, come da altre parti l'Italia in tutto il mondo. L'Italia è anche un paese razzista. No, l'Italia non è un paese razzista. Ma dove lo trovi un paese? Ma dove lo trovi un paese che ospita? Che chiamano in questa ottima radio. Scusa, come dove lo trovi un paese che ospita in questo modo tanti extracomunitari? Ma ci mancherebbe. E che fornisce denaro quotidiano per la loro sopravvivenza. Ma lascia perdere. Ma dove lo trovi un paese così accogliente? Dove lo trovi? Così accogliente? Certo, assolutamente. Però io mi voglio incazzare questa volta, anche se non critico mai i magistrati quando sono in corso delle indagini, con il PM, no, scusi, il GIP, che ha convalidato il fermo in carcere del signore Mancini, quello che ha dato un pugno. E ti pareva che adesso fai il garantista per Mancini? No, non faccio il garantista per Mancini, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Può Fosse essere Mancini o può essere un altro, avresti detto, no! Ma questa giustizia non funziona! Lasciano, scarcerano tutti questi. No, aspetta. Allora, una cosa è che tu, questo qua, secondo me, dovrebbe andare in galera, dovrebbe restare in galera. E allora? Questa è la premessa: dovrebbe restare in galera perché con un pugno, volontario, non volontario, quello ha sbattuto la testa, lo accerta la magistratura, è morto un uomo. E siccome questo qua è praticamente reo confesso, perché è reo confesso, no? Cioè, non è che è un caso controverso, è controverso nella modalità, ma non è controverso. Cioè, questo qua ha sferrato il pugno finale. Quello ha sbattuto la testa, è morto, poi se è morto sbattendo la testa, se è morto a causa pugno, lo vedremo. Ma senti cosa dice il GIP per confermare l'arresto del signore, per convalidare l'arresto. È altamente probabile che se messo in libertà gli si ripresenterà l'occasione di molestare e aggredire altri extracomunitari, giacché sono presenti in numero considerevole nella provincia di Fermo. Cioè, siccome ci sono molti extracomunitari a Fermo, sostiene il magistrato, questo potrebbe... picchiarne un altro. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Non lo so. Cioè, questo deve stare in galera, perché secondo me dovrebbe stare in galera. Ma la reiterazione del reato, cioè il fatto che questo qua, scarcerato, continui a picchiare. Peraltro non è che andava in giro a picchiare così a cazzo di cane. Prima ha insultato, poi c'è stata una rissa. È una cosa ridicola. Dite tranquillamente, lo teniamo in carcere, perché altrimenti se lo scarceriamo tutta la sinistra e tutto l'antirazzismo italiano ci fanno un culo così. Vabbè. Perché questa è la realtà dei fatti, dai. La realtà dei fatti è che lo vogliono tenere, secondo me, anche giustamente in carcere. Ma non giustamente, perché questo qua se esce picchia un altro. Ma politiche praticamente. Ma certo, ma è normale che sia così. Ma è normale, scusa. Un corno, lo stato di diritto non c'entra con le scusa, ma è politiche. Chiaro che si appigliano a delle cose di giuridiche, no? E dai, su, ma quello è normale. La Chieng, a me mi fa impazzire in questi giorni la Chieng. Siccome il Senato non ha riconosciuto l'istigazione all'odio razziale, non mi ricordo sulla vicenda di Calderoli, immagino, che ha dato dell'orango alla stessa Chieng, allora c'è un morto. Cioè, ma ragazzi, ma veramente io impazzisco di fronte a queste cose. Siccome il Senato non ha dato il via libera al processo a Calderoli nei suoi confronti perché gli ha dato dell'orango, allora adesso c'è scappato il morto. Sì, beh, questo è... Questa è una puttanata. Grazie a Dio che non è successo questa prima, è una diciamo. Puttanata. Questa Tutato. È una puttanata. Tutato. Questa politici. È una puttanata. No, no, no, questa no, è una puttanata. Questa è una puttanata. Politici questa è una puttanata. Giocano, fermami. Questa è una puttanata. Questa è una puttanata. Questa è una puttanata. Anche a te la lettera dell'urologo anziché del cardiologo. Dai, ma su. Voglio dirti questo. È un caso gravissimo. Dai. I politici giocano in una polveriera. Fammi sentire un attimo. A me, i politici è come se fossero a fumare le sigarette. Ma, una no, ma di i politici pettina. Non sono credibili per nessuno. Figuriamoci quando dicono orango o cose del genere. Quando dai, su. Uno scherza, su. Scherza un corno, però. Fammi sentire, su. Fammi sentire, ti prego. Fammi sentire. Va bene. Il Senato non ha riconosciuto che quelle parole erano insulti con uno a sfondo di istigazione all'odio razziale, è stato preso ad esempio da tante persone. Qui è uscita fuori perché c'è un morto. Basta vedere cosa succede negli stadi. Ragazzi, adesso che qualcuno in Italia possa prendere esempio dal signor Calderoli, no, beh, nessuno prende esempio ma da Calderoli, detto con tutto il rispetto, ad usare un certo ma non è vero, non è così, lo una direbbe comunque. Non si vergognava a dire certe cose, ma... non lo diceva neanche al basta, parco non posso... l'amico. È tre giorni che ripeto la stessa cosa, fermo là, fermo lì, fermo. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la zanzara, non si potrebbe fare... tutto traffico. La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ma perché Parenzo può chiamare gli altri di miserabili, di scimmie, solo perché sono bianchi? Sto vedendo Parenzo sulla 7 e ho una sola certezza nella vita: Parenzo è cornuto. Adesso che c'entra, scusami, essere cornuti tra l'altro può essere anche per alcuni piacevole, per Parenzo no, l'abbiamo accertato, però adesso non è che uno vede in televisione uno e dice quello è cornuto, no, ma che appunto, è? Cioè, ma rispondi a questo tizio? A questo... No, rispondo che sua moglie è molto carina, simpatica. Quindi, ah, la conosci? La conosci? Beh, però tranquillizza dire. Tua madre con un altro sms, ti prego, perché sennò veramente va a finire. No, ma ha scritto tutto a posto, gli ho scritto mamma che la visita del cardiologo è andata bene, ha detto semplicemente, proprio esplicitamente, non arrabbiarti tra 18:30 alle 20:20 alla zanzara, perché quello ti provoca degli spasmi del cardiaci praticamente, cioè anche le voci di alcuni miserabili, Donato da Varese, ma anche altri imbecilli, coglioni che chiamano, pare sia molto tutti, carico Donato, alcuni mi provoca proprio una, no, una, sai, vabbè, allora abbiamo un signore che si chiama Mamadou da Torino, signor Mamadou. Mamadou, non fare battute, no, ridere. Mamadou, io ho detto Mamadou, che Mamadou. Battute ho fatto, no, uno si chiama, tu ti chiami David, io mi chiamo Giuseppe, no, questo si chiama Mamadou. Sì, ma dal tono come lo dici, ma sembra non che c'è nessun tono, si chiama, ma che ti conosco mascherina io, quindi Mamadou, Mamadou, che nome è Mamadou, Mamadou, no, Mamadou, un imbecille si chiama Donato e lui si chiama Mamadou. Vabbè, Mamadou, buonasera, dica. Mamadou. Buonasera, cugiani. Dimmi, Mamadou, di dove sei tu, Mamadou? Un coglione che critica il nostro nome, è così come che abbiamo chiamato, no? No, ma io non ho criticato nulla, è Parenzo. Sì, che... no, perché lei ha anche ripetuto, dimmi, Mamadou. Cugiani, Vabbè, Mamadou. Sì. Da dove allora, vieni? Non ho capito da dove vieni, Mamadou. Io vengo dal Senegal, ho provato Senegal, a chiamare okay. ieri dopo che io intervento il taco mio paesano. C'hai la spada di fuoco pure te? Ma magari peggio di lui, però è un'altra parte. Ah, beh, sempre spada di fuoco si tratta, però, amico. Perché? Ma ci avete tutti la spada di fuoco in Senegal, non ho capito. Ma lui ne ha una, io ne ho già tre. No, tre come fai a venne tre di spade di fuoco? Amico mio, tre saresti. Figli, no? Saresti no, ma è un'altra cosa la spada di fuoco, però. Lo sai che cosa intendo per spada di fuoco? Ma so quelle che intendi. Curitiani, abbiamo la stessa vita, quindi. Molto più per di più. Per cui, no, mi voglio accertare. Anche tu hai la spada di fuoco? Sì, sì. Benissimo, no, ma per capire, cioè per capire, in Senegal anche tu, evidentemente Parenzo hanno tutti la spada di fuoco. Non lo so, si può utilizzare questo termine, spada di fuoco? L'origine del nome Mamadou, che è molto bello invece, Mamadou. Ma perché ne dica Luciani? Bello. Ma sarà bello, anche Giuseppe è bello, che vuol dire? Cioè, sì, perché no, però dici tu, stranamente non ripeti mai il nome di chi chiama. Ho detto, dimmi Mamadou, Mamadou, vabbè, Mamadou. Ecco, Mamadou, allora, from Mamadou, Senegal, che cosa minchia ci vuoi dire? Scusami se qual è l'origine del suo nome? Dimmi, ma chi se ne frega dell'origine del Mamadou? Cosa vuol dire? Aspetta, accontentiamo Parenzo, cosa vuol dire Mamadou? Ma Mamadou è un nome che si chiama Mohamed, solo che lui Mohamed, come Mohamed, benissimo, andiamo bene. Andiamo. Carla, ma Mamadou, Mohamed è uguale. Mohamed, come gli islamici. Sei islamico tu? Veramente. Sei islamico, muslim? Ma sì. Sì, sei muslim, ma sì, tanto sì, all'acqua di rose, diciamo. Sono musulmano. Sì, sei sì. musulmano, bevi alcol? Sì. No, no, no, non ho mai bevuto, non ho mai fumato. Mai fumato? Vai, pratichi, sì. pratichi la sodomia? Pratico, non ha mai fatto male nessuno, anche posso garantire. No, cioè pratichi sodomia, per capire, pratichi sodomia o no? Ma sodomia, ma no, perché devo praticare sodomia? Ma non lo so, ma è una domanda, siccome ci sono vari tabù nel mondo islamico, per carità, ma per quelli che... Ma che cazzo è il mondo islamico? Ma il mondo islamico, perché il mondo Africa all'Ovest è molto diverso come pratica. No, ma certo, adesso, comunque abbiamo accertato, tu non bevi, non fumi e non pratichi sodomia. Benissimo, andiamo avanti. No, no, no. Perché no, ci no, chiami, no. Mamadou? Allora, ho chiamato perché veramente, Curitano, io da anni che ascolto Zanzara, ma... Ascolti Zanzara? Solo... Dimmi. Sì, sì, sì, sì, sì. Intervengo che solo, ma quasi raramente. Però ci avete rotto i coglioni con questo razzismo. Razzismo che è stato e che sarà sempre. Sempre, perché sono persone stupide. Vabbè, ma quello lo sappiamo, ma gli italiani come sono? Da quanto tempo vivi in Italia tu? Ma no, tu? No, no, ma Mohamed, da quanto tempo vivi in Italia, Mohamed? Io da 26 anni che vivo qua. Allora non puoi dire che da 26 anni non mi pare che sei stato aggredito. Cioè, italiano di Paolo Tavares. Ma sì, ti sto spiegando una cosa. Io mentre che camminavo con mia moglie e tre figli... Mi hanno attaccato di insultarmi. Ma quanto tempo fa? Quanto tempo fa? Ma parlo di più o meno, non è tanto, neanche sei anni fa. Vabbè, una volta nella vita, ma dai. Sì, ma non è una volta, però quello che ti voglio dimostrare. Cioè l'Italia è un paese razzista o no? Ma non dico che paese razzista, perché io se mi è capitato questa cosa lì, mi è capitato altre 100 cose brutte, io non posso generalizzare. Vabbè, ma l'Italia com'è secondo te? Razzista o no? Ma non era assistita. Vabbè, allora basta, ho capito. Allora, ciao amico mio, ciao, ti devo salutare. Dove andiamo? Massimo Vicenza, Massimo. Ciao. Dimmi Massimo, dimmi. Volevo capire una cosa. Ieri... Capiamola quanti... insieme le cose, dimmi. Ecco, ieri tutti quanti al funerale di questo povero ragazzo. Sì. Oggi Renzi che si... Ieri, l'altro ieri in realtà, domenica, comunque, ieri, dimmi. Sì. E oggi Renzi che andrà a lavorare a dare una mano ai ragazzi che stanno... Vabbè, Renzi è andato in Puglia, va bene, allora? Per quale motivo? Ma che vuol dire per quale motivo? Lo sappiamo, no? Per quale motivo? Spesso per presenzialismo, diciamo, oggi Renzi quindi è andato a fare un atto di testimonianza lì. Per me le istituzioni, quando ci sono queste cose qua, fanno solo casino quando sono sul posto. Perché scorte, cose, protezione, eccetera, vadano dopo due giorni a trovare magari le vittime in ospedale, cioè, ma non là quando c'è il casino, nel luogo del disastro. Comunque ognuno poi fa il cazzo che vuole. Dei PR, non abbiamo dei politici. Vabbè, allora Massimo, cosa vuoi dire oltre a questo? No, che mi stanno sul cazzo, tutto qua. Ti stanno su coglioni, bene. Abele da Belluno, vai, Abele, signor Abele. Ecco, scherza anche su Abele. No, no, Abele, vai. Si chiamava Caino, cosa avresti detto? Vai, Abele, dimmi. Sì, ciao Cruciani. Senti, dimmi, io dimmi. Volevo dire la mia testimonianza, no? Testimonianza. Su questa gente qua, extracomunitari che vanno per casa a vendere le sue cose là, no? Ma a me non viene mai nessuno a casa mia, però magari a casa tua. A casa mia sono venuti proprio sabato e io ti dico, no. Ma sono venuti dove? Che hanno fatto? Hanno bussato, hanno suonato, no, che hanno no, fatto? Ti spiego, no? Io ho un cancello, l'ho chiuso, c'ho anche un cane con fuori il cartello, attenti al cane, ero tranquillamente lì dietro casa. E che hanno fatto questi? Questi qua è entrato e ha suonato il campanello di casa. Vabbè, no, ma quello anche i testimoni di Geova lo fanno. No. Un momento, loro stanno fuori dal cancello. Tu non puoi venire nel la porta di entrata all'interno della mia proprietà. Il cane ha sentito il campanello suonare, è andato fuori, è andato prendere. Vabbè, andiamo al sodo, qual è il problema? Che questa gente qua fa un po' di tutto, non c'ha educazione. Fa un po' di tutto, ormai non c'ha educazione. Ma sai quanta gente suona a casa mia tra testimoni di Geova, gente che vuole vendere la pubblicità, eccetera. È pieno di gente. A me i marocchini a casa mia sono mai venuti, però sarà che sono al centro di Milano, centro, sono semicentro. Pronto? Parlo con il CERT? Ah no, è la zanzara? Beh, fa lo stesso. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. La zanzara. Aremma gatta, stamattina arrivo al lavoro e trovo i pomodori mangiati da cinghiali. Noi ci si vive, o pomodori qui, e col vino e tutti gli anni vengano i cinghiali e ci mangiano la roba. Io ci metterei vegani la notte a farci di guardia. Accidenta a loro e scoppiassero. Eppure tanto stanotte ci vengo col mio babbo e si fanno fuori almeno un paio. Mortacci vostri. Allora, torniamo con gli ascoltatori, Parezza, tra un attimo, Luca da Vicenza, Massimo da Roma, Dario da Como, Franco da Roma, altri ancora. Numero di telefono sempre lo stesso, li sapete tutti, mi rompe pure i coglioni ripeterli sempre. Però a grande richiesta, noi ieri abbiamo fatto un sondaggio a Tor Bella Monaca Roma, chiamando un numero a caso, per capire ma come siete messi a zoccole, come siete messi a topi. Qua è Tor Bella Monaca, quartiere di Roma, molto in periferia, si dice invaso dai topi. Sentite cosa è venuto fuori, Pronto? Tor Bella Monaca, sì. Sì, buonasera, ufficio disinfestazione. Volevamo sapere come siete messi a zoccole. Ce ne abbiamo 3-4. Ma dove stanno queste zoccole? Dove si può intervenire? Se vieni qui, stanno qua, tra un po' vanno via però. Siete sbrigati. Ma come sono? Grosse? Come sono? Perché voglio capire che cosa bisogna portare per ammazzarle. No, come ammazzare? Ma le zoccole, i topi? No, quelli là, no, quelli non ci frega niente di quelli. Ci stavamo quell'altro, no, quelle umane. Ah, ma c'hai le zoccole quelle vere? Ma dove stanno ste zoccole? Qui, ci stanno. C'è una un po' cicciottella, ma l'altra è bella, ma tutta fatta bene. Ma interessante sta cosa, l'ufficio, ma scusa, ma quando se ne vanno di solito? Che adesso questa è quasi l'ora che staccano. E che staccano a quest'ora? Io sto al centro, al comune, ufficio di disinfestazione, come faccio ad arrivare fino a là? Quanto costa là? Ah, poco, 5 euro. 5 euro? Sì. Così poco? Eh sì, perché no, qui se fa una lira. Ma ho capito, amico mio, queste qua... I prezzi. Ma sono vecchie queste qua, che ci venga no, a fare? No, no. Sono 70, una 68. Beh, più vecchie di queste erano 68-70, che poi una cuna di 90 anni, scusa. Beh, noi ti paga un po' di più. Ma tu ci vai ogni tanto, no? Giusto per sapere se è consigliabile. Io abito a Torre Angela, capito? A Torre Angela? Sì. E che ci vedi? Beh, come no? Io ci vado sempre. Ci vai sempre? Con due sordi. Ma veramente stai a dì? Te soddisfi, come no? Ma vanno bene, cioè, come so? Amolo, sono già un'esperienza. Ma che fai con queste te? Tutto, quello che te pare. Quello che te pare, 5 euro non è possibile, non ci credo, dai. Non è possibile. Sì, sì. È troppo, no. Poco. È poco, però se vanno a lavorare è così, no. Se no niente, Ma che c'hanno il papone questa qua, non è che è pericoloso, no? No, sì, se c'era quello deve pagare più, loro perché stanno autonome, che lavorano così per conto loro, possono farsi prezzi. Ma senti, ma poi dove si fa, in macchina o a casa? A casa loro. E che stanno là vicino? Stanno? Sì, stanno appartamenti qui, belli, con letto, con letto matrimoniale. Matrimoniale, tranquillo, eccetera. Sì, boh. Ma spero col preservativo, no? Che fanno le cose, o no? No. Come vuoi tu. Come vuoi tu, con o senza. Bah, vabbè. Senti, però, torniamo a noi. Io ho chiamato per un altro motivo, per Tor Bella Monaca, qui per i topi. Ci avete i topi voi? Perché qui pare che è pieno dei topi, Tor Bella Monaca. E quanti ne vuoi? No, topi, cioè li vedi tu in giro sti topi, là? No, io non ho visti, però se chiedo là ce l'hanno. No, ma non voglio i topi, voglio capire se ci stanno o no, se è un problema o no i topi. Cioè, se pare che Tor Bella Monaca sia invasa dai topi. Io non lo so, io penso di che non lo so perché sto a lavorare. Ma intorno, vicino al tuo negozio, c'hai i topi? Io non l'ho visti, però... Non si vedono? L'ho visto in televisione. Ah, solo in televisione? Sì. Aspetta che ti passo il funzionario qui, così prendiamo nota, Dunque, non ci sono topi lì, non ci sono... Qui no, qui aspetta no. Un attimo che ti passo il funzionario, aspetta un attimo, aspetta. Pronto, buonasera, mi ha passato il capo dell'ufficio. Senta, allora, per risolvere il problema delle zoccole, noi le mandiamo lì una squadriglia di due funzionari, va bene? Veniamo verso le 21. E 21? Sì. Se viene alle 21? Sì. A me non me ci trova, io l'aspetto. Ho capito, ma questo qui mica sta al servizio di chiunque, non è che ha pizza a casa, ha pizza express. Ho capito, ma lo so, io sono andato. E allora si tenga le zoccole, che devo fare io? Io non ho chiesto niente, e a me mi ha segnalato il capo dell'ufficio, il De Crux. Ah, De Crux, no, io non lo conosco. Vabbè, niente, la saluto, arrivederci, grazie. Fioraio, ragazzi, il Fioraio di Tor Bella Monaca è un personaggio eccezionale, personaggio eccezionale, sì, eccezionale, sì, uno eccezionale. Dei tanti. Allora, Mirella Padova, dai, Mirella. Miserabili. Ma che miserabili, perché telefono? Miserabili? Vai, uno Mirella, va dimmi. Prostituta così. Ma a parte che non ha detto che va a prostituta, sarebbe da indagare questo. Comunque, Mirella, vai. Allora, io telefono perché voglio esprimere la mia idea. Nel senso che ritengo che in Italia... Beh, non, questo non c'è dubbio, se uno chiama non è per esprimere diciamo l'idea di un altro, è per esprimere la propria. Sì, ma volete chiedere anche la vostra opinione? No, la nostra opinione la diciamo ogni giorno, non c'è bisogno, ogni ora, ogni allora, secondo. Allora, io ritengo che l'Italia non sia razzista, sì, mentre sono convinta, convintissima, anche perché ho modo di frequentarne parecchi, stranieri, che ci siano molti razzisti anche da parte loro. E perché lei frequenta molti stranieri, signora Mirella? Perché abito in un quartiere, in un palazzo. Ma li frequenta? Che vuol dire li frequenta? Li frequento perché ci parlo assieme. Ha avuto qualche relazione con questi qua? No, relazioni. Ma non c'è niente di male a essere fidanzata, per esempio, con un extracomunitario? No. Perché no? No, perché io ho un'età matura. E beh, che c'entra, appunto? Cioè, lo sai che è pieno di donne in età matura che vanno con gli extracomunitari? Sì, che si sposano per dare la cittadinanza. Certo, beh, non solo, però... anche per altri motivi, signora. Va bene, non è il mio caso. No, comunque. Per carità, con tutto il ridetto, con tutto il rispetto. No, però io sono proprio sicura, perché sento, parlandoci assieme, lo percepisco. Sì, lo sono razzisti loro, sono razzisti. Che sono anche loro razzisti. Le grandi inchieste sociologiche di Mirella Parenzo. No, non sono grandi inchieste sociologiche, sono convinzioni. Sì, convinzioni. Dall'esperimento. Da dati di fatto, non c'è dubbio. Signora Mirella, buona indagine, continui pure così, vada avanti. Va bene, Franco da Roma. Vai, pronto? Franco. Dimmi. Niente, volevo visto niente, che sempre niente. Parenzo un po' strillare, un po' rompere i coglioni. Io volevo dire stia attento, giovanotto. Non è che ho detto che non posso strillare e alzare la voce, ma mandarla a fare in culo lo posso fare in 40 secondi. No, cosa no, ci mancherebbe altro. Non si preoccupi, perché quello lo posso fare anche con grande gioia, mi pare. Sì, va bene, Franco, cosa ci vuoi dire? Volevo dire che va sul razzismo, sulle cose, capito? Sull'ebrei, sul razzismo, sui nomadi. Ancora, che c'entra i nomadi, razzismo di ebrei? Adolfetto mio, aveva ragione per cui voleva sterminare. Adolfetto, tu hai il solito questo qua. Adolfetto. Ma immaginavo che chiamassi l'imbecille. Scusa, quanti numeri di telefono hai, Franco? Ma chi? Agli ebrei. Vabbè, Parenzo, basta, denuncialo questo qua. Ti do l'autorizzazione. La denuncia, mo guarda, mi fa il telefono azzurro, ti do l'autorizzazione ufficiale. Il numero di telefono ci vuole. L'altro giorno quello ti ha detto che aveva fatto bene ammazzarlo, ti faccio una denuncia, ma sempre denuncia. Scusami, Franco, ma quando le arrivano a casa due carabinieri o polizia che le notificano, vedrà che si mette paura e fa meno il galletto. Scusami, Franco, scusami un attimo, ma i fatti di Fermo come li commenti tu, Franco? I fatti fatte di Fermo per me è una litigata, appunto e basta. Vabbè, ha detto bene quello di Roma ieri sera. Quello se, di Roma, se tu, sì. Se tu vedi Parenzo per strada, non è che c'è politica, perché se gli danno schiaffo, quello casca per terra e muore. Vabbè, e poi c'è un palleggio italiano, vedi? Poi a loro li difendono, e a noi no. Ma purtroppo. Noi chi? Allora, quelli per tipo di Parenzo. Parenzo, visto che è un extra comunitario. No, non è italiano, è italiano. Ma perché lei deve aggravare sempre di più la sua situazione? Giuseppe, ma è italiano. Tu sei un pariolino. No, non sono pariolino, assolutamente no. Perché deve aggravare la sua situazione? Venivamo ai Parioli, a Villa Clara, venivamo... Ma lei perché deve aggravare la sua situazione? Tutte le donne vostre. Voi eravate sempre fighetti, ben ma di che stai parlando? Adesso purtroppo la donna vuole Franco, io non ho capito. Allora, faccia tuo... così, torni a casa, ma telefoni prima, va che tua moglie si sta a divertire con due negri, va? Vatti a divertire, vecchio mio. Torna a casa. Allora, Franco, nei giorni scorsi... Si stanno a divertire te mentre non ci sei. Se stanno a divertire. Io faceva bene perché c'aveva tutto male. Scusa, ma me fai capire? Ma perché Adolfo? Ma me fai capire? Perché ogni volta che te ne vai a casa tua c'è una gangbang. Mi fai capire? Perché devo la sterminare? Se voi ne avete mai fatto capire, non sa che significa, non sa che significa. Non ci sei. Mi fai capire? Perché Adolfo viola le vacche? Ma perché a casa tua ogni volta che te ne vai festeggiano? Ragazzi, però non si può. Come te, siete pieni. Però scusami, Franco, basta con questa storia qua, perché veramente aggravi la tua situazione. Aggravi la tua situazione. Però io. No, ma aggraviamo. Sembra che sei contento. Non lo so. Ma io voglio la risposta, non me la dà mai. La risposta arriverà dai carabinieri. Ma sì, ma va dai carabinieri. Ma va. Franco. Ma scusa, hai dato il numero di telefono l'altra volta? Che effetto ha avuto il numero di telefono? È arrivato una meraviglia. Bellissimo, bellissimo, bellissimo, favoloso. Cioè? Tutti i complimenti, tutti i complimenti. Sì, solo voi che avete fatto gli scherzi due volte e mi avete fatto i scherzi. Ma quali scherzi? Ma quando mai? Ma quella è gente che ha chiamato. Quali... Ma noi abbiamo fatto nessuno. Pure la radio aperta, noi nessuno scherzo abbiamo fatto. No, se avete fatto i scherzi. Ma quando mai? Vabbè, comunque, ridai il numero di telefono. Addirittura la radio aperta. Sì, sì. Avete lasciato addirittura la radio aperta. Franco, dammi il numero di telefono di nuovo. Dallo, considera. Ma che te ne frega? Cioè, ce l'hanno. No, ridallo. Abbi il coraggio di ridarlo, dai, ridallo. Ma perché? Ma qual è il problema? Ridallo il numero di telefono, ridallo. Ma perché? Ma tutto voi ce l'avete. Poi qual è il problema? Tu stai con Mancini? Stai con Mancini o no? Stai con Mancini, quello di Fermo, oppure no? Non ho capito, ti sento malissimo. Non è l'unico problema. Stai con Mancini, quello di Fermo, oppure no? Io sì, sto con Mancini. Per me è stata la banale che ha preso un cazzotto. Ha preso un cazzotto e è cascato, purtroppo. Ma quello gli ha detto scimmia, quello gli ha detto alla donna, scimmia africana, vattene. Ma se vedi Parenzo, che gli dici? Ma che gli dici a Parenzo? Ma scusa, ma è un insulto razzista. Ma che lecca culo pure quando ma che c'entra? Ma tu l'hai visto che lecca culo? Tu scimmia, Franco. Telefona a casa quando torni che trovi la sorpresa. Sì, pensa per te. A me mia moglie c'ha 64 anni. Telefona a casa. A tua devi stare attento. Quella 50 anni si è divertita. Mentre scusami, 64 fine del boschetti, te raccorgi che poi tu quasi 64 anni, 64 anni, mi sembra tua moglie 64, dunque sicuramente Franco 64 anni sicuramente tua moglie. Vabbè, l'abbiamo capito. Abbiamo capito. Poi era qualcuno che apparteneva a Mussolini. Sì, detto. Franco, 64 anni, tua moglie 64 anni, tu sicuramente sì, darai da fare altrove, allora. Ti darai da ma fare. Ma non ti preoccupare, che mi do da fare dell'aide qua tutta. Ancora funziona bene. Mondo degradato. Funziona ancora. Ancora fermo là, fermo! Dove c'è zanzara, c'è caciara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Sì, beh, certo, la Kieng mi ricorda Naomi Campbell, niente da dire, ma... Non le viene vagamente in mente che magari quello di Calderoli fosse un giudizio estetico, proprio immotivato, naturalmente. Cruciani, ma quindi se uno mi ferma e mi dice terrone, sono autorizzato a prenderlo a bastonate perché c'è la connotazione razziale? Ma dai! Cruciani, Parenzo, la gente purtroppo è piena di paranoie con questi extracomunitari. Io abito in un paesino, ne vedo di tutti i colori, ma a me non dà un fastidio, forse perché non mi è mai successo niente, non lo so, anzi. Ma la gente veramente sta andando fuori di testa, tutta colpa della televisione, secondo me, che riempiono la testa la gente. Stanno tutti con Mancini, anche qua dove lavoro io. Gli unici che non stanno con Mancini sono di colore nero. Allora David, a proposito di bianchi, neri, razzismo, non razzismo, l'Italia, eccetera, eccetera, c'è un altro caso in queste ore che sta un po' rimbalzando sul web, come si dice in gergo, no? Ed è il caso di un signore napoletano che noi conosciamo bene, un conduttore radiofonico napoletano che si chiama Carlo Alvino. Non ti dice niente questo nome, non sai nemmeno chi è. No, Alvino. No, no, no, non sai chi è. Bene, è ti faccio sentire. Io conoscevo l'osteria Alvino, pane, dici? Al pane, Alvino. Allora, questo signore Carlo Alvino è di fronte a un ascoltatore che chiama, in questo momento si trova a ritiro del Napoli, un conduttore radiofonico abbastanza noto a Napoli, dice sostanzialmente che gli juventini devono avere una morte lenta ma sicura. Cioè prima gli abbassa il telefono dicendo non voglio parlare con te, eccetera, eccetera, e poi dice morte lenta ma sicura. Voglio fare una domanda al signor Alvino. Prego. Alvino, lei vuole vincere? Buona giornata, arrivederci, arrivederci, non ho bisogno di parlare con lei, arrivederci, fate cadere subito la linea, buona giornata. Allora, mi costringete a fare il maleducato. Per curiosità, chi poteva essere? Un non colorato. Uno con affetto da questa gravissima patologia. Potevamo parlare di Pereira però con lui. Chi è affetto da questa patologia ha una sola strada, morte lenta ma sicura. La patologia è essere juventini, naturalmente. A me non, cioè non scherzava per niente, era molto serio questa cosa qua. Sei pregato di non telefonare più. Sei pregato di guardarti i tuoi canali. Tele Arsenio Lupin, quella è la tua televisione. Come sei partito? Tenivo virus. Subito. Cos'è come si dalle nostre parti? Ho sentito l'uosa, ma il mio olfatto, ormai faccio il cane da tartufo, mi riconosco subito, non me li passate. Riconosco l'odore dei napoletani, ma c'è Donato da Varese che ha chiamato approfittando, Parenzo, della tua menomazione, apparente menomazione. Donato, buonasera, ciao. Buonasera, ciao Giuseppe. Dimmi, ciao. Che è successo? Dimmi, no, a me la presenza di, come si chiama, di Parenzo, il fatto che abbia poca voce, che il dottore abbia indicato di non sforzarsi troppo perché gli potrebbe un attacco poco greco, a me non mi interessa. Non ti interessa? Niente, no, non ho detto stato. Che ho poca voce, ho detto che il medico mi ha prescritto di non dialogare con i miserabili e tra questo... Capito. Ha messo e citato proprio questo personaggetto, okay. questa maschera schifosa, questa latrina, questo. Ma non ha detto niente per adesso. No, scusa. Questa persona che si è diventata famosetta. Allora, io prima voglio smantellare sue voglio smantellare non col piccone, con le bombe. Voglio smantellare con le bombe la parola razzismo. Dici. Gridare. Io stasera non voglio gridare, quei pochi secondi che no, mi, grida, mi, perché no? Fai sì te stesso. Allora, la parola razzismo non esiste. Che c'è, sia la Chiengi che la Boldrini, che ricordo ancora, che sta alla camera come sta una puttana, no! In una sala operazione. No, ti sto dicendo che per me non mi rappresenta e non è il luogo suo. Ho capito, però non si può dire. Allora, non è il luogo suo. Una che contro gli italiani non è. Ma io non ho capito, ma non è bastata la querela di Chicco Testa? Ma non gli sono bastati i carabinieri, Donato, allora. E me lo stai offendendo, hai detto puttana, dai. Ma non gli sono bastati i carabinieri a casa che gli hanno notificato le indagini. Dove c'è un'operazione abbastanza complessa. La stessa incongruenza c'era la Boldrini seduta lì nel Senato, alla Camera. La Boldrini non c'entra un cazzo. Allora, la prima cosa, la Boldrini non rappresenta gli italiani. Vabbè, presidente, terza carica dello Stato. Benissimo. Allora, la Boldrini deve chiedere. Io vorrei avere un incontro con la Boldrini. Ma non credo, hai dato la puttana di 2 secondi fa, amico mio. Ti prendi la tua responsabilità. Allora, io sono incensurato, sono pulito, non ho mai fatto male a nessuno. Vabbè, allora... Non ho mai spezzato nemmeno mezza coda a una lucertola. Pensa un po'. Eppure poi a me le persone mi chiamano razzista. Razzista perché difendo la mia Italia. difendo la mia gente, la gente che ha costruito questo paese. Vabbè, okay. E non è certo un geniano che viene qui bellamente, so che cazzo un che ha soltanto un attenuante. Ma è morto, è morto. È però. Un cristiano. È morto. Come che i cristiani non ammazzano, non fanno saltare le teste alle persone, ma gli islamici sì. Ma gli islamici, ma scusami, è morto questo nigeriano. Questo nigeriano è morto. E con questo che quante persone sono? Perché schifosa, dei 7.000 italiani uccisi negli ultimi 15 anni, dove cazzo li dobbiamo conteggiare? Ma che vuol dire? Perché scusa, non c'è un'inchiesta? Perché non c'è un'inchiesta? Ma su che? Perché il porco proprio ha aperto le fronte alla Bulgaria? Sa quante ne sono morti gli italiani? Ma tu che sei un giornalista, ti affresco. Ma perché? A parte il fatto che sarai circondato dai tuoi nemici. Chi? Perché non facciamo un'inchiesta su che di cosa? Quanti italiani sono stati uccisi? Uccisi in Italia negli ultimi 15 anni! Ma mica perché chiamavo una donna? Chi? No, a scimmie del cazzo! Magari a una mia eventuale donna, moglie, marito, amante la chiamassero scimmie del cazzo. Mica vada a tirare un palo dal terreno per spaccaglielo in testa. Non si sa, allora, ancora, non si sa quello che è successo però. Là c'è una testimone. Quella testimone, sai cos'è? È stata la iella dei centri sociali. Pare due quella testimone. Sì. Quella testimone. Non so come si chiama, da noi intervistata. Benissimo, quella è la iella della sinistra. Vorrebbero tanti che non esiste quel testimone oculare. Sì, è sì, la iella della sinistra. Sai perché se avesse testimoniato a favore del negro, io lo chiamo negro perché ero bambino. Sai, capito? Ho visto che... i film negro, adesso ci hanno ridotto come soldatino. Si dice nero. Io dico grandi il popolo sai negro. Sai cos'è che c'è stata anche una cantante che è uscita a Sanremo, anche era una negra, fieramente ha detto sono negra, oh, l'hanno fatto sparire. Perché tu devi dire nere politicamente corretto? No, ma su questo non ha torto, però Donato sì, non allora, torto su è andata a documentarvi, è sparita. Perché i adesso malati, io sono negra, i malati sono una razza negra, razza negra esiste, io rispetto la razza negra e non posso rispettare la razza nera, la razza nera che cazzo è, la merda con dentro il cancro, che cazzo è, esiste la razza negra. Vabbè, d'accordo, abbiamo capito, razza negra. Che più mi dispiace, non queste che merde che hai a fianco, aspetta. Non queste merde che hai a fianco, che sono spurie, la cosa spurie, che dispiace, ma hai visto gli occhi di questa merda? Allora, gli stessi occhi che sono questi. No, ma aspetta, Donato, fermati un secondo. Da un punto di vista, dico proprio medico, alle volte ci sono anche i casi più disperati, nascondono allora, un morirai, valore di lucidità, tu anche morirai. Disperati. Se sanno, l'unico caso al mondo perché sono signore dei medici non criminali, non mi assomiglia per il mondo un centesimo. Come? Vergognati, servo della merda. Ma io quando dico che tu sei un servo della merda, inglobo tutti i traditori italiani. Ma chi sarebbero i traditori? I usurpatori delle nostre libertà. Chi sarebbero? Allora, quel Mare Nostrum, come cazzo, Triton, Frank. Ma non c'è più. Deve essere chiuso. Ma non c'è. Deve essere chiuso. Ma deve essere chiuso. Io voglio vedere un'associazione che l'unica cosa che devono chiudere 3 miliardi per gli italiani, non per gli africani. L'unica roba da chiudere sei tu, ma non ma di colore criminale con le sbarre dietro. Scusa, ma il prete di Fermo, che ne pensi del prete di Fermo? È un figlio di puttana. No, è un figlio di ma che ha fatto? Che per il prezzo del denaro, della moneta, dell'euro dice cose contro Cristo, contro tutto. Non, ma perché contro Cristo? Non ho capito. Soltanto un ragazzo, un ragazzo perché fosse muscolato. Cammini, io quando ero bambino siamo cazzo. Ma capiamo, quello gli ha detto scimmia di merda, vattene, vattene. Ma non è un'offesa! Ma non è un'offesa! Ma come non è un'offesa? Le offese, dai. Sono ben altre. Le offese è quando senti parlare abbiamo i derivati in pancia. Qua si parla di economia. Vabbè, ma quello è lo scempio! Ho capito! Quello, le banche devono essere bisogna farle esplodere! Come esplodere? Che c'è? Non testa? Perché uno chiama scema negra. Ma scusa, ma quella che... Scusa, ma hai visto la scena drammatica di quella, della vedova di Manuel, là? Che è uno schifo! Ma come uno schifo? È uno vedere quella Boschi! E vedere quella povera Boschi! Quella fa... Mamma mia, quegli stoni, quegli scappi... ma io non so come devo definire, io mi vergogno di avere di italiani così a piangere. Mi sembra una prefica. E dove sono il lullo dei 7.000 famiglie che guardano, sono uccisi i figli? Dove abbiamo visto un capo di stato o un rappresentante? Parenzo, hai qualcosa da aggiungere? Parenzo, No, l'unica cosa che ho aggiunto è uno schifo. Vabbè. È uno schifo, che secondo... anche quel cancro che ti sei levato intorno a te, perché tu per quante contraddizioni puoi avere, carissimo Giuseppe, in confronto a questo scafandro di merda che è lì, tu sei un santo. Aspetta però, Parenzo, che hai da dire in conclusione? No, voglio dire che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la diffusione delle malattie mentali porta ovviamente, oltre che a rischi, anche a pericoli per la società. Sì. Però in tutti c'è in genere un riscatto. C'è un caso, lo 0,001%, qui non c'è rischio, che dove in cui non c'è possibilità alcuna di guarire. Quindi le soluzioni sono due, o lo si interna, ma non serve un cazzo, lo si interna, oppure gli italiani hanno bisogno, si può usare come esperimento, come cavia, come trapianto d'organi. Hanno bisogno degli italiani. Questo qui non ho mai visto difendere un italiano, a meno che proprio non sia stato proprio, che se voglio dire. Va bene, Donato, grazie, grazie, ciao, ciao. Grazie, dice anche. Vabbè, è intervenuto, dico a tutti grazie. È intervenuto? Adesso poi vedi che il medico mi dice stai calmo perché sa già che sto per impazzire. È intervenuto? È intervenuto, ha chiamato, è intervenuto, ma si è prenotato Mario per una chiamata. Mario Monti interviene. Vabbè. Non Donato da Varese, cosa vuol dire è intervenuto? Ma, non pronunciare il nome di Mario Monti a Donato. Cosa vuol dire che è intervenuto? È intervenuto, ha fatto un intervento come un altro ascoltatore, uguale. È intervenuto? È disturbato, devi dire. No, vabbè, è disturbato, dai, ma perché devi dire... Perché devi dire che è disturbato, signor Donato, dai? Se non è disturbato questo qui, ragazzi miei, io voglio dire... Oh, in collegamento da Ibiza! Alba, come stai? Come stai, io cara? Io sto bene, molto bene. Ma grazie. Ti ho visto non delle sono... foto molto belle. Ma come mai non c'eri? Ma come mai non era al Gay Pride? È Gay Pride, non sono venuto. Dove? A Torino, dici? Sì, perché io... Lo so, hai ragione, hai ragione, ma non sono venuto perché avevo altri impegni, poi in questo momento non mi muovo molto da Milano e niente. Però ho visto delle tue foto molto belle, sei in grandissima forma Ibiza, me ne compiaccio. Senti, però, prima di bisogna un attimo... Cosa? Che bisogna un attimo? No, bisogna, amore, bisogna ricordarci che oggi è una giornata tremenda. Vabbè, ma d'accordo, questo lo sappiamo già, sono morte delle persone, No, non è solo morte. Sono morte moltissime persone, tra l'altro c'è bisogno di sangue, mi stanno dicendo, mi stanno comunicando. C'è bisogno di sangue, lo sappiamo. E quindi perché, facciamo... E che dobbiamo fare? Vai, se fossimo là, andare a darlo, per esempio, ma mi sembra importante. Ma però io sangue è importante, sì, diamo sangue per la Puglia, per basta carità. Basta che non sia il tuo, Cruciani. Beh, allora, scusa, ma dici così, ma sei veramente incredibile, guarda, fai pure la battuta su una tragedia, allora sei tu. Non scherziamo, non faccio nessuna battuta. Diamo il sangue, ti sto pregando tutte le persone all'ascolto. Pregami, sono nelle zone. Vabbè, ma non è che il tuo appello, adesso sarà decisivo, insomma, no? Beh, perché non sarà decisivo. Senti, Cruciani, ma che vuoi dire? Tutto contrario di quello che dico? Se volete dare il sangue, date il sangue. Allora, io voglio capire, Alba, date sangue. Ce n'è bisogno. Va bene, Alba, spiegami una cosa. Hai saputo di questo fatto di fermo? Hai saputo di questo fatto di fermo? Così sembra tutto una vaccata. Certo che ho saputo del fatto di fermo. Che io dici? Però prima ti fermo subito. Oh, perché prima di parlare di questo avrei detto. Ma perché non sapevo, tu lo sai che io qua. Tu lo sai che io queste cose qui non le sopporto. Io lo so che tu vuoi parlare. No, queste cose qui non le so. Ma no, di questa cosa qui non le sopporto. Ho capito, ma allora ma perché mi devi fare l'appello della Puglia? Che me ne frega a me in questo momento? Me ne frega tantissimo dei morti, ma non c'è nulla da dire oltre alle indagini che ci sono. Cosa vogliamo dire? Vogliamo fare gli appelli? C'è da donare sangue. Ma quella è Radio Vaticana, è Radio Rai e altre cose, non la Zanzara. Ma a fare in culo non ci vai? Guarda, no, ti mando io a fare in culo. Ma anch'io uguale, ti mando a fare in culo. Va bene, per me è più importante dire che c'è bisogno di parlare. C'è bisogno di sangue, te l'ho già detto tre volte, allora, che c'è bisogno di aggiungere. Ma c'è quarta volta, c'è bisogno di sangue, va bene. Questo è il modo, per non fare. Nonostante ciò, pensa che io sono così signora che rimango al telefono con ma te. Puoi anche mandarmi a fare in culo, ma non si possono fare gli appelli di sangue. L'ho già fatto. E anch'io ti mando a fare in culo serenamente. Siccome non ho paura di stare, potrebbe sbatterti il telefono in faccia. Ma fallo tranquillamente, ma lo puoi fare tranquillamente. No, non c'è nessun problema. Come quell'altro che ti ha sbattuto il telefono in ma tutti mi. Il tuo ex fidanzato, sì. Il mio ex fidanzato ha fatto benissimo a mandarti a fanculo. No, ha fatto malissimo, ma chi se ne frega. È una cosa vecchia. Senti, che cosa sai dei fatti di fermo? Cioè, secondo te gli italiani sono un po' razzisti? Un popolo di razzisti? Sì. Cioè, grande parte come tutti quelli che hanno subito delle frustrazioni, poi finiscono con individuare il nemico nella persona sbagliata. Dunque, molti italiani sono razzisti. Molti italiani sono razzisti, soprattutto quelli che hanno delle grandi frustrazioni, perché non è possibile non capire che... Ma tu sai cosa è successo, Fermo? Certo che so cosa è successo, Fermo, mi chiami per questo. No, ma cosa è successo? È morto uno. Cos'è, un quiz? No, è morto uno. È morto uno. Con un pugno, eccetera. Sì, lo so, certo. Ma qua, l'accusa, diciamo, l'insulto lo sai qual è stato? L'insulto iniziale, diciamo, l'insulto iniziale. Alla moglie, no, se non sbaglio, dico giusto? Sì, sì, assolutamente, sì. Ma io so che tu le sai le cose, non so dicendo. Non so, pensavo che mi facessi un quiz a premi. No, ma tu sai che che la dinamica ancora è in discussione o no? Non lo sai questo? Ma la dinamica sarà anche in discussione, ma il resto l'abbiamo visto. Ma tu lo sai perché è in discussione la dinamica? No, dimmelo, perché sai, ero in viaggio. Dimmi, ma ho capito, ma come fai a dire che è un atto di razzismo quando ancora non sai la dinamica? Ma tu l'hai vista la moglie come risponde? Ma non è questione. Ma la moglie pianta, pianto perché è morto uno, vabbè, d'accordo, è morto il marito. Quella è la classica guerra tra poveri, hai capito? Perché quello che gli ha dato il pugno non era Lord Byron, era uno che veniva da una condizione sociale disagiate esattamente come probabilmente era questa persona, ignorante, con una reattività da psicopatico chiaramente disturbato, è una persona che avrebbe già dovuto Tu sai che in realtà dopo l'insulto pare che sia stato la coppia di Neri a iniziare la rissa, sembra da alcune ricostruzioni, lo sai o no? E cioè, quindi tu dici che è giusto giustamente no, che io non ho detto, no, io non ho detto questo, ho detto semplicemente che la dinamica è ancora in discussione, ma sarà sempre in discussione perché le dinamiche, siccome non è possibile accertarli se non con i testimoni oculari, ma in quel ragione caso, Alba, l'altra è la moglie. Cioè c'è un fatto dire che non è contestabile, che il fatto sei che... ancora vivo, buongiorno, sì, ci sono, cara, grazie, buongiorno, totalmente fagocitato. No, ma siccome ha detto già episodio di razzismo, quando invece non sa niente manco la dinamica. È evidente che è razzismo, se non altro perché questo signore la moglie di questo signore è morto, è stata posata come scimmia. Allora basterebbe questo per derubricare questo caso, non a banale caso di cronaca, cosa che non è, ma un evidente caso di razzismo, perché scimmia è l'insulto tipico dei fascisti. Esatto, bravo. Il leghista soprattutto è un termine legato, sì, guarda, vai un po' dietro nella storia. Calderoli, dice qualcuno. Calderoli, signor Orlando. No, ancora prima, l'assedio della razza, No, ma tu dici i leghisti sono, diciamo, alla fine un po' anche responsabili di questo degrado. Ma che vuoi, che mi vengano altri 15.000 leghisti a rompere le palle? Sì. Ma non lo sai nemmeno, ma non sai la dinamica di quello che è successo. Ma non sai la dinamica. Porca puttana, non sai la dinamica, non sa niente. Ma perché? Con tutta la gente vuoi che mi meni qualcuno allora? Sì, istigazione a delinquere, poi facciamo come i casi, diciamo, dei passati. Sai che un sindaco a Rovigo della Lega dice che sposare due uomini o due donne è come sposare un uomo e un animale, oppure come sposare quattro uomini o quattro donne? Te lo dico subito, io su questo sono d'accordo con te. Crusciani, voglio sapere una cosa, tu vuoi essere menato da me, di la verità. Voglio essere? Perché io sei menato da me. Picchiato? No, guarda, no, questo. Ma ferma lì che c'è la pubblicità, ma non ho questo tipo di masochismo, di perversione, no. Siamo al top! La Zanzara. Allora ragazzi, qualche giorno fa il sindaco leghista di Rovigo, ha detto una cosa, ha scritto una cosa, anzi era un'intervista, poi l'ha ribadita sul proprio profilo Facebook: sposare due gay come sposare un uomo e un cavallo. Ognuno nella vita fa quello che vuole. Lui dice che non vuole applicare la legge e delegherà qualcun altro a fare i matrimoni, eccetera, eccetera. Però equiparare l'amore di due persone, e dunque l'unione tra due persone, due donne e due uomini, due gay, due lesbiche, quelli che sono, all'affetto, a quello che si può provare tra un uomo e un cavallo, anche se per gli animalisti quelli estremi dovrebbe essere la stessa cosa, oppure, come lui ha detto, e se un bel giorno si presentassero in tre? E se qualcuno viene qua con un cavallo e vuole sposare anche quello? Questa qua è una puttanata. è una stronzata, perché non si arriverà mai. Non è che la, dopo l'unione gay c'è l'unione a tre o c'è l'unione tra un uomo e un cavallo. Si tratta sempre di due persone, non si è mai infranta questa roba qui. Cioè, si tratterà sempre di due persone, non ci sarà mai nessun paese che autorizzerà il matrimonio a tre, il matrimonio a quattro, e figuriamoci il matrimonio tra un uomo e un cavallo. Ecco, se c'è una cosa su cui siamo d'accordo io e la signora che è collegata da Ibiza, credo sia questa. Mi sembri una canzone di Checco Zalone. Che vuol gli dire? Gli omosessuali sono tali e quali, eccetera, eccetera. Vabbè, lo vedi che siamo d'accordo su una cosa? Stai dicendo delle ovvietà. No, le ovvietà le dici te, io dico delle cose sempre, quasi sempre originali. Sai che cosa penso? Dimmi, cosa pensi? Dimmi, che al sindaco di questo paese gli piace il cavallo. Perché è proprio un classico transfer, cioè voglio dire, quando uno... Ma il cavallo, vede, se gli piace il cavallo... Secondo me gli piace il cavallo. In sì. Che senso perché gli piace il cavallo? Perché quando uno vede, dice delle cose così, come quelli che ti dicono sempre, ce l'hanno a morte con uno, no, a me quello lì mi fa schifo, non lo vorrei fare. Ci gli piacciono gli animali, per carità, eccetera. Gli piacciono sia gli uomini che i cavalli, guarda, ti dirò di più. Sì, sì, ho capito. È una tale cazzata quella che ha detto, che però... avendo fatto tanti anni di analisi, mi fa capire che questo sindaco ha delle perversioni molto forti, voglio dire. È probabile. Oltre a dire una serie di cazzate, c'è molto vento a Ibiza, vero? C'è molto vento a Ibiza. No, in questo momento un aereo che passa sopra, io sono in giardino, in piedi. Beh, che bello. Io sono davanti al mare, io sono in piedi come un cavallo, per far contento te, Cruciani. Beh, questo sono molto contento. Sempre un rapporto sadomaso, soprattutto perché tu parli di razzismo affermo, ma non sai un cazzo. Questo è il punto fondamentale. Ma che cazzo dici? Non sai nulla e parli di razzismo. No, io parlo di cose di tutto perché sono pagato per questo. Sono pagato per questo. Purtroppo è gente che ti paga pure. Sì. È stupefacente. È stupefacente anche che c'è un sacco di gente che segue questa trasmissione, capito? Qual è il punto? Ma io non lo posso credere, ma è anche colpa mia che poi ti do retta. Bah, non credo, guarda, non contribuisci per niente. Però ti dico una cosa, tu non sai nulla, non sai un cazzo e parli di fermo senza sapere un cazzo, diciamola tutta, non sai nulla, niente. Ma so tutto, ma fammi dire una cosa poi. Nulla, non sai niente. Non sai come si sono svolte le cose, sai, così le cose per sentito dire, hai sentito la Boldrini, hai sentito questo, hai sentito quest'altro, parlare di cose generiche, quello allora è razzismo, gli italiani sono razzisti, ma chi te l'ha detto che gli italiani sono razzisti? Perché hai detto che gli italiani sono razzisti? Perché dici che sono razzisti gli italiani? Gli italiani non sono razzisti, come fai a dire che sono razzisti? Ma senti, ma che temperatura c'è a Milano? Non sono razzisti gli italiani. Ti sta sulle palle per stare al caldo. Ti sento un po' sbroccato. Non sono razzisti gli italiani. Ma perché dici che gli italiani sono razzisti? Non ho capito. Vai al sodo, perché inutile. Come tutti i popoli, ma mi fai ripetere? Come tutti i popoli, no, ripetiamo, è importante. A che ti pagano? Io questa cosa te la faccio pure gratis. Dimmi, gratis, sì, come sempre. Tutti gli italiani che tra l'altro dovrebbero conoscere il valore le prestazioni, certe prestazioni sono gratis. Sono stati un popolo di... ci hai provato tante volte... Non ci può, no, certe prestazioni in generale, ho detto, sono gratis e non ci ho mai provato nemmeno una volta. Mai una volta. Tanto avresti fallito. Intanto non ci ho provato. Ma chi se ne frega? Ma certo che... Ma sei tu che l'hai detto. Sai che esiste l'ausilio Mariuccia? Tu lo sapevi. Ma sei tu che hai introdotto questo argomento. Dai. Una cena per l'ausilio Mariuccia. Dai, allora, gli italiani razzisti, dai. Gli italiani, purtroppo, perché sono degli italiani meravigliosi che sanno e conoscono il purtroppo valore della coglienza, sono anche razzisti, eccetera, certo. Ma molte persone, soprattutto i più frustrati, soprattutto quelli che hanno subito il sottoproletariato, un certo sottoproletariato, tipo di sottoproletariato, sempre. Che però alle volte non è solamente sottoproletariato. Vabbè, allora perché, al momento, ma lo è intellettualmente. Lo è intellettualmente, sono razzisti. Come fai a dire che sono razzisti? Come fai a dire? Contro l'accoglienza e sottoproletariato intellettuale. Sì, sottoproletariato intellettuale. Arriva l'analisi sociologica. Perché avere paura degli altri, l'analisi sociologica, c'è poco da fare analisi sociologica. Ma tu come, ma voglio dire, dai, ma quanto ti pagano a parole che dici? E dai, su, e dai. Ti pagano a Cosimo. E dai. Comunque sei icona gay, sei icona gay, questo è interessante. Questo da mo'. Questo da mo'. Tanto, tanto so tutti, so tutti icone gay. Ti saluto, ciao, ciao, come ciao, bacio. Certo, ciao tesoro. Buonanotte. Beh, par de palle, buona, par de palle è un'altra cosa. Ciao. Quella nella piscià come al solito perché sono le 20.06. Mi dicono, sta rientrando in studio quello dalla pisciata? Sta per rientrare. Intanto chiamiamo sto sindaco, dai. Sposare due gay, come sposare un uomo e un cavallo, eh? Sindaco Bergamin, mi sembra. Sta rientrando quello, dai. Sta rientrando, sì, possiamo iniziare a chiamare. Iniziamo a chiamare, dai. Bergamin? Parla. Pronto, buonasera, Cruciani, salve. Era. Bergamin, ma che hai detto, amico mio? Che ho detto? Hai detto che sposare due gay è come sposare un uomo e no, un cavallo. No, no, questo lo dici tu. Ma come no? Lo leggo qui. No. Esattamente cosa hai detto, così chiariamo tutto. Una famiglia formata da un uomo e una donna, poi cioè per te la famiglia, scusami, per te la famiglia è solo quella uomo-donna, d'accordo, uomo, questo, questo è legittimo, io la penso diversamente, ma questo è legittimo, ma pensare, ma non è nessun problema, ma io rispetto le opinioni diverse dalle mie, sono gli altri che non rispettano le mie. Ok, benissimo, però tu hai detto un'altra cosa, hai aggiunto un'altra cosa. Ho detto in questo contesto, premesso che nel mio comune si rispettano le leggi e quindi questo tipo di situazione io delegherò chiunque, anche un cittadino che gode dei diritti civili può celebrare un matrimonio civile. Tu non celebrerai uno? Non lo celebrerò, io delegherò, in 12 mesi ne ho celebrato solo uno, delego gli altri come faccio adesso, punto, basta, non c'è nessun problema. Però hai aggiunto... Perché ho detto, sì. E se per quanto mi riguarda, oggi possiamo, la legge consente di sposarsi due uomini, due donne, e perché non sposarsi, unirsi tre uomini e una donna, o due donne e tre uomini? Cioè, non, oppure hai aggiunto un'altra cosa. Oppure, ho detto, oppure, ma un uomo, non un gay, ho detto un'altra persona con un cavallo, perché oggi... Molte con persone, un cavallo. Sì. Molte persone. No, no, non, oggi molte non, persone. Non scivolare sul cavallo. Oggi molte persone. Molte persone amano perché l'amore non può essere. Amano i cavalli. Amano i cavalli. No, amano gli animali. Il punto fondamentale è solo uno. Se tu metti sullo stesso piano l'unione tra due gay, che siano essi uomini o siano esse donne, con quattro uomini e tre donne, con un cavallo e con un uomo, sia esso gay che eterosessuale. Parlavo di amore in quel momento. Ma ho capito, li metti sullo stesso. Ma li metti sullo stesso piano, amico mio? Li metti sullo stesso piano? Ma come no? Secondo te due gay, l'unione tra due gay è la stessa cosa dell'unione tra un uomo e un cavallo? Io, ripeto, riconosco il matrimonio per quanto mi riguarda, tra l'unione tra un uomo e una donna. E tutto il resto è uguale. Tutto il resto è uguale. Non mi riguarda. Ma non ti riguarda, ti deve riguardare. No, ma vabbè, ho capito, te elevo qualcun altro, punto. L'unione tra un uomo e un cavallo è una cosa diversa. È una cosa non è un'unione corporale, non è un... Ma quello che è, quello che è, quello che professore, è. Aspetta, scusi, professore. Professore. Chi è il professore? No. Lei è professore. No, lei. No, no, lei è professore. Volevo dirle questo, professore. No, ma con grande tranquillità. Lei ha la sentenza della Cassazione? No, no, no. No, prima no. La mia opinione. Senza arrabbiarmi, perché non posso arrabbiarmi, il cardiologo me l'ho anche detto, senza urlare. Il cardiologo? Sì, cardiologo, non mi cardiologo. Posso arrabbiare, la zanzara mi arrabbio troppo, ma ha prescritto una cosa che mi ha detto che non posso più arrabbiare. Ma veramente? Sì, perché mi fate incazzare da morire. Non potendomi arrabbiare, con grande calma, dico al professore che stiamo intervistando. Siamo Bergamin e fa il sindaco a Rovigo, non però. Non mi interessa, al professore sindaco che stiamo intervistando. Va bene, allora, sarebbe molto più intelligente dire due parole. Ho sbagliato, detto una cazzata. Quattro parole. Ma la lascio dire lei questa cosa. Quattro. Non è che sono quattro parole. I cavalli li lasci a Caligola. Ma sì. Che le ha fatti i senatori, ma va bene. Che le ha fatti i senatori, i cavalli li lasci a Caligola. Però oggettivamente, guardi, sindaco. Siamo governati da un presidente del Consiglio abusivo, vuole che chieda io scusa a cosa? È chi promulga queste leggi che deve chiedere scusa agli italiani? Perché? Perché dovrebbero chiedere scusa per le unioni gay? Perché è politicamente abusivo. Non può essere sottoposto ad una norma l'amore. No, cioè, ma se ci sarà anche qualcuno che si è innamorato di Parenzo, non è che possiamo star qua a discutere. Vabbè, adesso, adesso questo... questa è una bella battuta. Ma io dico una cosa, ma perché dobbiamo confrontarci con questi professori qui? Bergamin, scusami un attimo. Scusami un attimo, ti danno aspetta, Parenzo, fermatevi un attimo, però voglio chiedere una cosa con tranquillità al sindaco. Allora, io voglio capire, il Gay Pride a Rovigo ti dà fastidio? Il Gay Pride a Rovigo? Ma non è in calendario. Ma ho capito, metti che ti darebbe fastidio il Gay Pride a Rovigo? Tutto quello che rientra nelle attività che possono essere svolte in un comune come il mio, e quindi tutti i comuni, cioè, se qualcuno organizzasse Gay Pride, vabbè, non partecipare, quello mica non darò il patrocinio e non darai il patrocinio del comune, cioè, vabbè. Ma soprattutto non vorresti che a Rovigo sfilassero i gay per un Gay Pride, non vorresti, cioè, poi impedirlo è una mia opinione, ma io li rispetto i gay, e ma io non ti sto dicendo quando una persona, ma uno dice sempre così idea, ma no, ma dice sempre così, affermare le proprie convinzioni, giusto, sbagliate che siano, non allora, spetta a Parenzo giudicare a nessun altro, ma quello... fermo, ma rispetto. Scusami sindaco, le scene gay in televisione le censureresti o le lasceresti passare tranquillamente? Ma no, ma lasciate perdere, queste sono provocazioni che appartengono alla vostra tipologia di trasmissione. È una domanda, uno risponde. Ah, il sottoscritto è stato censurato, Cruciani, io sono stato censurato. Dove sei stato censurato? Vabbè, è una cazzata, però Facebook mi hanno segnalato ed è uscito disattivato il profilo. In due giorni si sono messi d'accordo, avrei inviato delle mail, ma non c'era nessuna frase offensiva, c'era solo la... Tu dici, io rivendico il diritto di non sposare una coppia omosessuale, questo? Io lo rivendico e sarà questo che farò. Una domanda ultima, che differenza c'è secondo te tra una coppia omosessuale e quattro persone? Tu l'hai fatto l'esempio, eh? Una coppia non può essere formata... secondo me, da due persone dello stesso sesso o da qualsiasi altra situazione che non sia quello di un uomo e una donna. Poi, ripeto, le leggi vanno rispettate. Scusa, ma se due uomini si amano, se due uomini si amano e si vogliono inchiappettare... Io non entro nelle camere da letto di nessuno, nemmeno in quella di Parenzo, anche se finirei per annoiarmi sicuramente, però no, voglio dire... Guardi, no, ma dai, non metta il naso in camera mia perché non c'è... Io hai non capito, lo metto io non sua entro che nelle camere da letto di nessuno. Ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita, della propria esistenza. Però secondo lei non si può... La famiglia naturale è quella composta da un uomo e una donna. E gli altri che sono? I naturali che sono? Gli altri si amino, facciano quello che vogliono, per quanto... Ma non si sposino, ma non si sposino. No, vabbè. Vabbè, sindaco, arrivederci, grazie, grazie. È l'amore. Grazie, arrivederci. Ma perché farsi un Calvin Klein quando puoi farti di Zanzara? La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 00 24, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Beh, siamo veramente al top, siamo veramente al top. Tipi da Zanzara. Clemente, Clemente. Ciao Cruciani, senti, io volevo parlare di questa storia di Fermo, sì, e dico che sono totalmente per Mancini. Gli ha detto male a Mancini, a quello che gli ha dato il cazzotto. Sono un po' un appassionato di arti marziali, insomma, se tu dai un cazzotto su un gancio sul mento, sì, sì. È normale che può andare giù, ma non è un colpo mortale. Dunque, poi è normale, ma fanno una butta sul razzismo, quello ha detto scimmia, ma scusa, no? Se tu litighi con Ciccione, è normale che dici a Ciccione del merda. Litighi che ne so, con cinese e dici oh, occhi a muso giallo, è normale, no? E quando fai a botte è così. Dire scimmia africana vatte non è razzismo, caro Clemente. Secondo caro me Clemente. Se stai a litigare no, perché se è normale che se tu stai a litigare con qualcuno e te prende l'attimo le cose, che ne so. Se ma... ti dico Parenzo dicevo va brutto nano, se ti dico che ne so. Sì, ma ho capito perfettamente, ma non è muso giallo. Ma non è successo questo, Ma quello è un paro Cristo, cioè, si sono buttati tutti contro, proprio la crema della crema. Ha dato un pugno a quello. L'Alfano. L'Alfano. Allora, lasciamo questo messaggio. La prossima volta litigate con uno di colore, fate i mediatori culturali, no? Fate la vocetta di Parenzo, scusi lei! Risorsa per il nostro paese scappato da Boko Haram, ma di che io? Ma di che stiamo a parlare? Tipi da Zanzara. Crucià, ma il traffico durante la Zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile! La Zanzara. Ah, Allora, prima che vai via, David, io chiamerei Carlo Albino, lo speaker napoletano che ha augurato una morte lenta ai tifosi della Juventus, signor Albino, morte lenta ma sicura. E poi ha chiamato sostanzialmente Arsenio Lupin, la squadra bianconera, i ladri. Carlo Albino, ricordati bene questo nome, Carlo Albino from Naples, temporaneamente residente al ritiro del Napoli in Trentino. Pronto? Carletto, amico mio, sono Cruciani, che mai combinato ancora una volta? Niente, amico mio, proprio niente. Ma come no? Ma qui è dappertutto, hai detto a uno juventino in diretta, morte lenta e sicura. No, allora, quello è un filmato montato ad arte. Ma come è montato ad arte? Ma l'ho visto. L'originale. Allora, innanzitutto il contesto era una televisione privata napoletana con dei napoletani in un contesto di una piazza dove si scherzava e si rideva. Era ma che vuol dire? Di Rimaro. No, voglio dire, il contesto è questo. Devo dare anche il contesto. Vabbè, dammi il contesto. Tutti vogliono contestualizzare, sì, dimmi. Allora? Ridendo e scherzando, perché le cose quando si dicono ridendo e scherzando. No, non mi pare che ridessi, no? Attenzione, sì, ho visto il filmato, eri incazzato come una biscia, altro che ridere. Ma come no? Eri incazzato come una iena, dai. Ridendo e scherzando, no, non mi incazzo mai, quello per la mia vita è fatta così. Ma scusami, Carlo, ho visto il filmato, eri arrabbiatissimo con quello che ha chiamato. Non esiste. Non me lo passate più, hai detto, dai. Non mi arrabbio mai, ti assicuro, non mi arrabbio mai. Vabbè, allora. Non mi ha conceduto niente, allora niente, scherzando. Non è scherzando. Con gli amici che passavano. Ma non scherzando, perché l'ironia non è così. Dovrebbe essere un'arma di Vabbè, allora, di tanti, quindi non è un'arma di disposizione. Ha chiamato uno. Io non ci ho voluto parlare, sì. È legittimo figo, a me lo dici. Perfetto, niente, e poi abbiamo scherzato sul fatto di... Non avete scherzato, tu eri uno affetto da gravissima patologia, hai detto, cioè essere juventino. No, sì, e ho parlato di gravissima patologia, ma scherzando e ridendo, e poi ho detto calcisticamente parlando, io questo termine... Una morte lenta e sicura, una sola strada questa patologia, una morte lenta ma sicura. E poi ho aggiunto calcisticamente parlando, ma ridendo con 50... A parte che non mi risulta che hai aggiunto questo. Non mi risulta perché il filmato è tagliato, amico mio, io ho il filmato in originale, ma no, al di là di tutto, voglio dire, ti posso sembrare che una persona come me possa augurare. Cioè, beh, diciamo che qualcuno... tu e i tifosi juventini li vorresti vedere tutti al cimitero, diciamo la verità. Non è affatto vero, anzi, io li voglio in salute, perché devono vedere le vittorie del Napoli. Se stanno in salute, loro vedranno il Napoli che vince. Se invece auguro loro la morte, loro poi non potranno vedere. Ma scusami, Carlo, poi hai invitato quello là a guardare. Ma io, scusatemi, non fatemi arrabbiare, perché ho avuto storia. Il certificato del medico, del cardiologo. Che ancora questo cardiologo. Sì, che non mi potrà incazzare. Allora, non dire, si vuole incazzare. Non posso, non vorrei, ma non posso. Che vuoi dire a Carlo Albino, uno dei grandi speaker napoletani, diciamo, ecco, no? Questo signore qua che tu non conosci. 5 minuti fa, grazie a Dio, ne ignoravo totalmente. Ma perché, grazie a Dio, che ti ha fatto allora? Perché non mi interessa. Non nulla ti interessa, vabbè, signore, no. Qua, a me interessa. Ha una responsabilità enorme, perché parlando a migliaia di persone che sono i tifosi del calcio, è Parenzo, si chiama Parenzo. Silenzio, perché non mi posso arrabbiare, anche se non si arrabbi, infatti non posso, le auguro una buona e da salute, medico. Le auguro una buona salute. Allora, le voglio dire questo, lei lo dica, se ha qualcosa da dire di intelligente lo dica, sì. Io ascolto. Lei è una persona intelligente, totalmente irresponsabile. Lei è una persona, lei è totalmente irresponsabile, incapace di intendere e di volere, perché... Perfetto, argomento, detto da argomento, lei, detto da lei un complimento. Argomento. Se lei mi dà dell'incapace di intendere e di volere, totalmente. Ma questo è grave, però. È grave, però. Scusa, Davide. Lei dovrebbe occuparsi di spaghetti con la pomodorola in coppa, e quello sarebbe l'unica cosa che qualificherebbe. Capite? Primo. Evidentemente, lei secondo, non conosce l'enogastronomia della Campania. Quindi lei è una persona che è lontano dalla realtà. Secondo, si mette una mozzarella di bufala in bocca e mi faccia finire di parlare. Allora, faccia una persona intelligente invece di fare. Allora, lei perché è un irresponsabile? No, non posso urlare. Ma... perché non no, posso dire che allora parli del medico, non posso. Allora. Faccia appello alla sua intelligenza, se ne è rimasto un po' di cervello, allora. Faccia appello a quel po' di cervello che le è rimasto e dica qualcosa di sensato. Se il sangue le affluisce correttamente al cervello, provi a placarsi un attimo. Perché lei sta farneticando, non conosce fatti e sta sparando cazzate. Allora metta in funzione il cervello, quel poco che le è rimasto di materia grigia, se il nostro signore un giorno mai le ha dotato di di materia grigia, e dica cose sensate, cose allora, che noi esseri umani scusami Carlo scusami Carlo, perché hai detto perché ha invitato quel tifoso a vedere Tele Arsenio Lupin, che è la TV quella è la sua TV, cioè Tele Arsenio Lupin, cioè la televisione dei ladri. Voglio dire, è quella, se non è una battuta quella, se anche quella mi contestate. Capito, ma no, non ti stiamo contestando niente, lui ti contesta, io no, io ti sto dicendo, però ammetti che tu consideri, non era detto in modo scherzoso, consideri la Juventus una banda di ladri, e questo è il punto, dai. Ragazzi, ma qua c'è un concetto che voi forse non avete. E qual è bene. Il concetto? Il concetto è che le cose vanno prese per come vanno dette, il contesto, io mi faccio quattro risate con i miei amici e con cittadini. Ma non mi pare, eri in collegamento, eri. Ma in collegamento, ma io ero in collegamento sulla televisione che irradia solo su Napoli, voglio dire. Beh, ho capito, ma sempre. Vabbè, Parenzo, che c'è da dire? Voglio provare a dire a questo signore, di cui ripeto non so né il nome né il cognome, non ho ma non sono tenuto neanche a dirvi, perché sarà anche così, ho detto che non la conosco, ma io non voglio, non mi risulta che lei abbia mai scritto saggi, ma che cazzo c'entra, scusa, non so niente, ma non mi interessa, non lei conosce la mia storia professionale, evidentemente non la conosco, non so niente, non mi interessa, allora resti la sua, posso dirle che andrò a letto sereno stasera senza sapere chi è lei, perché ancora non ho capito, io vado a letto sereno sempre a prescindere, lo lei farnetica in televisione augurando la morte ai tifosi di una squadra a lei avversa. Non l'ho mai detto, lei sta mistificando la verità. Allora, sarebbe come se uno le dicesse, sarebbe come se uno le dicesse, ha detto in questo momento è l'ultima, questo io so, e quindi lei sa le cose sbagliate. Allora, sarebbe come se uno le dicesse, ma le dico questo, lei è calcisticamente un cretino. Perfetto, io l'accetto. Calcisticamente un cretino, che oppure battuta, come se uno le dicesse che lei calcisticamente è un coglione, se volesse mettere un altro. E se glielo dico a lei, lei calcisticamente è uno stronzo. Io calcisticamente non mi occupo di calcio. Uno stronzo. Se uno invece le dicesse, ma lo dice, che lei è ontologicamente un coglione. Se le dico che politicamente lei è due volte stronzo. Se invece uno glielo dicesse ontologicamente, e allora lei non capisce, lei non si rende conto. Vabbè, ragazzi, Parenzo, non ho capito, tu lo stai accusando di essere un responsabile perché fomenta i tifosi, diciamo. È un grande esatto, ho provato a argomentare, a spiegare questo. Ma che argomentare, se queste sono le argomentazioni, lei è povero di argomentazioni, io non so neanche chi è. Carlo, ti saluto, Carlo, ti saluto. Ti saluto. Ciao. Il giornalista, ciao, fa il giornalista. Povero a lui, ciao. Ciao. Allora, notizie di ieri, ma mi sa che è il caso che ve la ripeta. Renzo Bossi al processo sulla Lega sui fondi pubblici che sono stati utilizzati per altro, diciamo la verità, per altro, tutto tranne che il finanziamento dei partiti e la vita dei partiti, che già a me fa schifo come idea, ma sono stati utilizzati per casa Bossi. Cosa ha detto il signor Renzo Bossi? Ho saputo della mia laurea in Albania solo dopo questa indagine. Escludo di aver mai chiesto soldi a Belsito perché non ne avevo motivo. Escludo di aver fatto l'università. Quei documenti li ho visti solo a indagini avviate. Sul diploma c'è anche la mia data di nascita sbagliata. Cioè, praticamente la laurea a sua insaputa. Telese! Peppino! Ma ho letto da qualche... Ho letto da qualche parte... che sostieni l'assurda tesi che siccome hanno tagliato i fondi c'è stato un incidente. Che cosa, della colpa del governo pure dell'incidente sul treno? No, ti prego. No, siamo col binario unico in metà, cioè non hai mai preso un treno a sud perché sei del nord. Ma che c'entra Puglia, questo col taglio dei fondi? Non ho capito. Ma questo lo so, ma non c'è il sistema, scusa, non c'è il sistema di arresto automatico che c'è in quasi e allora? Treni fabbricati dopo il 1900. D'accordo, non c'è dubbio. E quindi, e come mai non c'è? Cioè, uno si deve porre una domanda: com'è possibile che una strumentazione minima che c'è su qualunque treno, allora qual è la responsabilità? E mettetelo, e chi questa meravigliosa società che gestiva questo treno che c'entra con i tagli? Ma tu non so se hai viaggiato recentemente su un treno locale. Sì, non sì, io tra... in nessun orario. Ma dipende dalla regione, dipende. Non è vero. Ho viaggiato l'altro giorno su un treno locale in Emilia Romagna ed è arrivato in perfetto orario, perfetto orario. I treni regionali, almeno in alcune regioni, funzionano, in altre no. Allora apriamo il telefono, dite, chiamate la zanzara, spiegate, Peppino! Fermo. Ma i treni regionali, ci sono regioni e regioni, alcuni funzionano benissimo, in altri evidentemente no. Beh ragazzi, io quando ascolto la zanzara mi sento libero, libero, mi sento una persona libera. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Ciao Bruciani, ti faccio il secondo reportage dal Petit Fleur di Zurigo, è l'una di notte e io consegno i fiori, a me non me ne frega un cazzo del nigeriano che è morto a Fermo, non me ne frega un cazzo dei neri e bianchi che si sparano in America, non me ne frega un cazzo di chi piscia nella doccia o nel lavandino, chi si fa il bidet e chi no. Non me ne frega un cazzo di Parenzo che è contento di vedere tutti quei neri che cantano la Marsigliese. A me mi interessa solo che con 100 franchi entro al Petit Fleur, mezz'ora di sesso orale e poi... Oh! Allora, caro Luca, c'è gente che se ne sbatte di tutto quello che succede e si accontenta di andare nei bordelli. Che è sto casino che c'è? Che è sto bordello? I palinsesti della sette. Aspetta, ma metti in un posto dove si sente, se no non si sente un cazzo. Comunque il peggio di Radio Padania, vai! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Gli ascoltatori sono scatenati contro Papa Francesco. Servi di Roma fuori. Sì. Volevo dire al signor Francesco, no, che è un po' di tempo che lancia sassi e ritira la mano. Il fatto dei bambini violati non ha detto niente, che Gesù è soprattutto lì, che ce ne sono tanti dentro lì che violano. Che non bisogna più mandare i bambini all'oratorio con i pantaloni corti perché è in pericolo. Vai vedere le tue braccia possenti. Il signor Francesco e i suoi impiegati che sono i preti dovrebbero tappargli la bocca, perché lui queste cose non le va a dire in Francia, in Spagna, in Belgio o da un'altra parte, ci rompe le palle con i preti proprio a noi. E se il Papa predica bene e razzola male, questo è un problema suo. D'altronde nel Vaticano io gli extracomunitari non ho mai visti, quindi non venga a fare la morale a noi. Tra l'altro lui è un extracomunitario e esiste il principio di non ingerenza, cioè di non ficcare il naso nelle faccende di stati altrui, e il Papa lo faccia pure, visto che è infallibile, queste cose dovrebbe saperle. Il signor Francesco perché non si riposta tutti là in Argentina, schi profughi? Senza dubbi né ripensamenti. E ovviamente anche la Chienghe. Ma volevo chiedere alla Chienghe, quando un altro suo paesano ha trucidato i due vecchietti a Paragonia e quando il signor Cabobo col piccone ha ammazzato 3 o 4 milanesi in giro per il piccone a Milano, dov'era la signora Chienghe? Perché non si è costituita parte civile anche quella volta lì? Ma non è possibile che noi della Lega ci costituiamo parte civile quando un negro ammazza uno di noi? Caccia oltre il fiume. Il potere falso. Hai capito? Hai capito? Ma qua sono svalvolati questi, vivono con gli incubi. Beh, vivono con gli incubi. Scusami, aspetta un attimo, fermo, dove andiamo? Giovanni Treviso, vai. Sì, ciao Crociani. Dimmi, Giovanni. Niente, stasera si parla solo di Fermo e quindi parliamo... No, non solo di Fermo, abbiamo parlato pure di Froci, un sacco di cose. Sì, dai. Sì, beh, lasciamo, soprassediamo su alcune cose. Perché soprassediamo? Che ne pensi dei gay tu, scusa? A Rovigo c'è il sindaco che non li vuole sposare e dice che sposare si potrebbe presentare di fronte a lui il caso di un cavallo e di un uomo, oppure di 3 donne, 3 uomini tutti insieme, 5 che si vogliono sposare, scusami, è la stessa cosa, c'è l'amore tra due persone, uomo, donna, sì, è uguale a quello tra l'uomo e il cavallo, o no? Beh, oddio. Ecco, appunto. Diciamo che, visto che lasciano in eredità il patrimonio al gatto o al cane, non so dove andiamo a finire. Un domani. Anche a te, non... i froci non stanno simpatici, diciamo la verità. No, io da cristiano penso che se Gesù, se Dio voleva l'unione tra due sessi, non faceva Adamo ed Eva, faceva due Adami o due Eve. Beh, sì, poi questo, ognuno è libero di pensarla come vuole, sai, sì. Non è che... Vabbè, cosa metta... mi volevi dire, Giovanni? Ma io non sono razzista. Non però, senti, però non voglio neanche farmi prendere per i fondelli da questi signori migranti. Migranti? Perché? Sì. Quando è che ti hanno preso per i fondelli? No, non me personalmente, ma dici in generale gli italiani ci stanno prendendo per i fondelli. Vabbè, Giovanni, che relazione c'è con la vicenda di Fermo, se vuoi parlare della vicenda di Fermo? No, io non parlo di Fermo, parlo degli migranti. Scusa, non Luca, Fermo. Ma secondo te ha bevuto questo signore? Secondo me sì, peggio ancora se fosse naturale. Giovanni, vai. No, beh, intanto non mi lascio insultare da qualcuno che non conosco e non... Vabbè, ci presentiamo così ti posso insultare. Ciao, sono Luca. Vabbè, non me ne frega niente. No, perché hai la voce un po' impastata, capito? Hai la voce un pochino, ma non c'è niente di male. No, guarda, per carità. Bello. Siamo moralisti. Siccome sto guidando... Non vorrei parlare troppo velocemente. No, mi sembrava la voce un po' impastatina, capito? Però vabbè, per carità. Giovanni, dimmi, allora? Allora. Andiamo al sodo, però. I migranti, il nostro buonismo li ha sempre comparati con i nostri emigranti. Allora? Con i nostri... Mentre invece io so che quando c'è finita la guerra, alla fine della guerra... I nostri esuli che hanno richiesto asilo sono tornati in Italia e hanno combattuto con le armi per fare... Ma che c'entra questo? Scusami, spiegami. Per fare la Costituzione italiana dove c'è scritto cioè, che secondo c'è te quello là per... Emanuele dovrebbe andare a combattere contro Boko Haram. Bravo. Vabbè, ma bravo. Che cazzo c'entra? Allora, ma non è che si può che... Ma uno c'entra? Se non vuole come combattere non vuole c'entra? Combattere, se ti tagliano la testa No. Ma perché? Perché allora dobbiamo mandare i nostri soldati, i nostri figli a mandare nei paesi? A parte che non ci sono lì dove c'è Boko Haram, non ci sono non i nostri soldati. Non è mica solo Boko Haram adesso. Boko Haram sono quelli che tagliano le teste a tutti. Va bene, però ci sono in vabbè Giovanni, arrivederci, ciao. Antonio Roma, vai. Antonio. Pronto? Dimmi Antonio. Antonio da Roma. Sì, ho capito Antonio, sì. Mi volevo riferire a Parenzo, che è una delle poche teste pensanti che c'è rimasta in Italia. Meno male, sì, allora? Che lui è sempre un fautore dello Stato di diritto e si scaglia sempre contro quelli che per difesa personale sparano a quelli che entrano in case per rubare. Vabbè, allora, Antonio, perché hai chiamato? Non ho capito. Che cosa hai chiamato a fare? Per dire cosa? Non ho capito. Per dire cosa? Allora, perché quello che è stato insultato a Fermo, invece di reagire in modo forse sproporzionato, non ha sporto la sua brava denuncia. Ma non lo so, non sappiamo come sono andate le cose, ma adesso tutti quanti sono protagonisti di questa vicenda, perché insomma, se tu fossi stato lui, magari avresti reagito come lui, se è vero che ha reagito per primo o no. Va bene, un'altra cosa poi. Un'altra cosa, avanti, secondo tentativo, dai, rapidamente. Rapidamente, a parole nessuno è razzista, poi nei fatti lo siamo... il razzismo esiste, è inutile che il razzismo esiste. Vabbè. Allora, Antonio ti saluto cosa? Perché mi hai già rotto i coglioni. Ciao. Allora, Luca, voglio farti ascoltare però il governatore del mondo, Voglio farti ascoltare il governatore del mondo, il signor De Luca. Il signor De Luca grande, che ha parlato oggi grandissimo. No, è un grande, tu lo odi De Luca, invece io lo adoro. Io non lo odio, a me è molto simpatico. Allora, De Luca oggi ha reagito, sai quando ha detto bambolina alla Raggi e tutti l'hanno attaccato, sì. Quello applauso. Ma ragazzi, ma adesso non si può nemmeno dire bambolina alla Raggi, scusa, ma no, stiamo scherzando. No, non sto scherzando. Senti De Luca. E ho fatto una battuta alla fine che riguardava la Raggi. E si è scatenata una campagna di aggressione mediatica nei miei confronti, che è stato un esempio classico di fariseismo, di falsità, di ipocrisia e anche di imbecillità. Però è straordinario De Luca, perché se la deve prendere anche con esponenti del suo partito, che hanno detto battuta sgradevole, sessismo. Ma quale sessismo? Però è sempre più simile a Crozza. No, ma non è sempre più simile a Crozza. Il fariseismo. Senti, senti ancora, senti. Mambolino è più un complimento che un'offesa, tra l'altro. Mambolino, diciamo, è anche un termine che per noi è familiare, noi che viviamo qui, lavoriamo a Napoli e abbiamo familiarità con le porcellane di Capodimonte, diciamo, quindi sono termini che sono più ricchi di gentilezza e di grazia che di altro. Allora ragazzi, adesso però non ci può prendere in giro il governatore del mondo, che per me è sempre il governatore del mondo. È chiaro che lui lo diceva in senso negativo, cioè sembra una bambolina inconsapevole di dove sta, no? Al Campidoglio. Cioè non è che lo diceva con gentilezza, lo diceva facendo una critica, no? Cioè sembra una che, no, che ancora si deve raccapezzare, che ancora non sa dove sta, che ancora non sa decidere, eccetera eccetera. Una bambolina. Tutto era tranne che sessismo. L'avrebbe detto anche di un 5 Stelle, di un sindaco 5 Stelle uomo. Avrebbe detto un'altra cosa, ma avrebbe detto la stessa cosa. Avrebbe detto che era un pipì. Sì, avrebbe detto che era un pipì, come dice lui, no? È amico delle donne chi crea opportunità di lavoro per le donne, non chi fa il pipì. Poi se la piglia con i 5 Stelle, come al solito. Senti, senti. Qualche mese fa dicevano: togliamo i soldi per gli aerei, gli F-35, non li compriamo. Beh, non ci sono più. Premesso che dovremmo pure dire che se l'ISIS è a 200 km dall'Italia, eventualmente come pensiamo di contrastarli? Con le pistole ad acqua, diciamo, con le frecce, come... Poi vuole fare anche un confronto con Di Maio, però sbaglia la parola streaming, senti. Fare un dibattito con Di Maio. Quando avrà voglia, io sono pronto in qualunque sede, in qualunque luogo, in diretta, senza rete, nel web, con una trasmissione screening, come fanno loro. No, veramente non è screaming. È streaming. Guglielmo Bologna, vai Guglielmo, dimmi. Sì, buonasera. Dimmi. Io stavo ascoltandovi col solito piacere, poi quando avete deciso per un'ennesima volta che la signora Parietti è un'opinionista... No, veramente io la pigliavo per il culo per quello che diceva, sull'Italia razzista, sì, perché no, non sapeva nulla. Sì, comunque, vabbè. Ma insomma, però, sinceramente, insomma, la supponenza di quella donna è una cosa talmente insopportabile. Però è importante che ti ha fatto venire la bile, per cui ti ha fatto chiamare. No, questo. Ma si figuri la bile. Ho semplicemente cercato della musica e l'ho sostituito con della musica. Beh, ho capito, ma intanto stai qua però, amico mio. Sì, sto qui perché poi nel frattempo ho chiamato per dire, signori, io non ne posso più di una opinionista di quel livello lì, con quella supponenza. Vabbè, non ti piace, non ti piace la Parietti. Ci sarà qualcuno a cui non piaceranno le tue idee, la stessa cosa. Cioè, sì, sono convinto che avrà un grande seguito. Sono convinto che avrà un gran seguito. Ma no, non ho detto gran seguito, piccolo seguito. Dipende, esprime le sue cose. Per me stasera ha detto delle gran cazzate, punto e basta. Lino Matera, vai Lino. Rimani là che sto arrivando. Che vuoi Lino, che succede? Ah, pronto. Dove stavi arrivando? Dove stavi andando? No, sto lavorando, sto andando a portare delle chiavi a un amico. Hai chiavi a un amico? Ma dove? Ma che sei un camionista sei? No, c'è camionista. Sono della vigilanza. Della vigilanza, le chiavi a un amico. Che mi volevi dire Lino? Mentre portavi... Allora, praticamente io facevo il macellaio, no? Sì. Allora, sì, quando sì. si macellavano gli agnelli, sì. e ne macellavamo tanti. Sì, allora... Poi il dolore alle mani rimaneva. Vabbè, solo, sì, ovviamente. E allora... Quando andavo a farmi la doccia, ed è... Cioè, è sicuro questa cosa, perché... Vabbè, allora... Urinavo sotto la doccia, sulle mani, sì. e i dolori mi passavano così per incanto. E tra le altre tante altre cose. Cioè era praticamente una specie di toccasana per le mani pesanti, per le mani che facevano male. Sì, è vero. All'elogio della pipì sotto la doccia! Ci sentiamo domani, ciao. Sul palco, come nella vita, sex, zanzara e rock and roll. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando si torna a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.